tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, mercoledì 29 gennaio. Oh, ma chi c'è qua con me? La mascotte. Cosa stai facendo? Cosa? Cosa, scusa? Mangiare le caramelle così. Stai bevendo delle caramelle? Sì. Le stai bevendo? Sono caramelle la Macarena. Caramelle la Macarena. Mascotte, ma stai bene? Vabbè. È che sono in una scatolina. Che più ne mangi più fanno la Macarena. E la scatolina è a forma di bottiglia. Sì. Come scusa? Che cos'hanno i Titans? Che nessuno trova. Che cos'hanno i Titans? Loro hanno go. Basta così? Che cos'era questa canzoncina? È una canzoncina dei Titans. Cosa sono i Titans? Loro hanno go. I cartoni animato? Ah! Loro hanno go. Tu pa. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Oh, and I look back now. The summer seemed to last forever. Summer of 69, Bryan Adams. Beh, allora, Mascot, senti, ma cosa ne pensi tu della musica di oggi? YMCA. Ok, proprio quella di oggi, sì, certo. No, dicevo proprio quella del 2025-24. Naspira, nana, nana, YMCA. Com'era il testo, scusa? Naspira, nana, nana, naspira? Nana. Naspira, nana, nana? Sì, perfetto. Ispira, naspira, ispira, naspira. Ispira e naspira, perfetto. Direi che... Naspira, nana, nana, nana, YMCA. Allora... Era un po' che non sentivamo la Mascotte in radio, facciamo presente che il suo inglese migliora quotidianamente, giusto Mascotte? Adesso siamo a Naspira. Scrivi di wapapapapa, scrivi di wapapapapapa. Ecco, questa insomma già non è proprio... È del 2021. Non è proprio musica di oggi, aspetta, però... Aspetta, aspetta, ce n'è una. Beh. Amada tua. Neanche questa è di oggi, però comunque... Camminerò con un kit fai da te, okay, e passeremo tempo fabbricando gli origami. Ok, Mascotte, stiamo passando da una cosa all'altra, ma mi piacerebbe tornare sul... Sono stanca, è ora del riposino dopo pranzo. Sì, no, Mascotte, puoi venire un attimo prima di fare il riposino dopo pranzo, grazie, siamo in sì, studio. Che c'è? Allora, questo skibidi wappappa... Skibidi boom boom night. Night, certo. Night. Com'è che fa? Skibidi wappappa. Skibidi wappappappa. Skibidi wappappappa. Skibidi papà. Skibidi boom boom. Night. Skibidi boom boom boom boom. Night. Skibidi boom boom boom boom boom papà boom boom. Skibidi papà. Ah, interessante. Aspettate, ne ho una nuova. Scusa. Wingo wing under. Devi dire di chi è questa canzone, Mascotte, siamo in radio. Luna no, Pop. Ma... no, allora, Mascotte, per favore, concentrati. Skibidi Wappappa è dei Little Big. Piccoli grandi, Little Big. Capito? Ma è una contraddizione. Ok, però la canzone è la loro. Ma è una bene, contraddizione. Hai delle altre perle di saggezza da cantarci? I wanna witch in here, I wanna witch in here. Crescendo candy fa, crescendo candy fa. E poi ne ho un altro. Zombie, zombie, zombie, we, we, we, we, we. Ok, questi erano i Cranberries. No, erano i Little Big. Stiamo confondendo gli ascoltatori, i Mascotte. Direi che possiamo chiudere questo momento di storia sì. della musica e passiamo a un altro discorso. Passiamo a un altro. Sì, si spera veramente. Addio, perché... scappo. Dove vai? Vado a fare il sonnellino del pomeriggio. Ha ha ha. Napoli Little Big Skibidi Romantic Edition, perché poi c'è anche la versione normale, questa era quella romantic. Skibidi Wapapa, questa non ce la toglieremo più dalla testa per le prossime settimane, la mascotte io. Ma ecco, direi che possiamo parlare di una cosa importante, perché tu stai scrivendo in questo periodo, cioè stai scrivendo da tanti anni, ma in questo periodo ti stai concentrando particolarmente, stai leggendo tanti libri gialli e stai scrivendo... So chi sono gli assassini. Gli assassini, sta scoprendo tutti. Il maggiordomo. Il maggiordomo. E il postino, ovviamente, il maggiordomo e il postino, quelli per eccellenza. Quelli sempre, vero? Infatti. Però poi si è aggiunto anche il cuoco. Che non si capisce perché sti poveretti, sempre il maggiordomo, il postino, ma il cuoco. Ma perché giustamente li la governante. Sfruttano. Ah, ecco, questo è un argomento... Sfruttano. Cioè, voglio dire... Il cuoco si chiama NG. Perché devono essere sfruttati questi personaggi e poi non arrivano all'omicidio? Vabbè, ma io volevo parlare di un'altra cosa. Vabbè, sì, ma perché hai tirato in ballo? È molto perché stavo dicendo che tu sei in un periodo in cui stai leggendo molto e scrivendo molto. Allora, no. Quello che leggi sono libri gialli, quello che scrivi sono meravigliosi racconti visti dal tuo punto, insomma, di vista di bambina, però già grande. I gialli ci provo a scriverli, non ci riesco. E sono difficili, devi essere molto efferata per scrivere dei gialli. Non riesco ad attaccare una cosa con l'altra, cioè se non so attaccare che mia madre si chiama in un modo e mio padre in un altro, non so manco attaccare... Sì, ho capito il concetto. Non so attaccare le frasi. Questa cosa della scrittura però sta diventando una cosa un po' seria, diciamo, anche perché stai iniziando a scrivere un libro e hai un editore che ti sta per editare il tuo libro, quindi adesso siamo alla correzione delle bozze, più aggiungere delle cose, soprattutto le immagini sempre fatte dalla mascotte, quindi cioè sta scrivendo un libro la mascotte, ragazzi. Ovviamente sarà dedicato a tutti voi, come la nostra trasmissione non potrà essere altro che dedicato ai nostri ascoltatori. Il titolo provvisorio è Io sono Gea. Io sono Gea, che non si capisce bene se la protagonista o chi dice Io sono Gea, insomma, poi lo leggerete, lo leggeremo e sapremo di più di questo libro, perché lo leggeremo anche qua in radio, ce lo leggerà direttamente la nostra scrittrice. Sono giusto 30 capitoli, se sapete stare 20 minuti ad ascoltare, io ci sto volentieri, vi racconto ogni pezzo della storia e poi vi racconto come mi è venuta in mente degli anni trascorsi in vita. Fantastico. Mia, di quando c'era la seconda guerra mondiale. Ah certo, perché tu c'eri già, ovviamente. Sì, l'ho vissuta. Ah certo, infatti io mi chiedevo come fai ad avere tutta questa esperienza per scrivere addirittura dei libri. Tu hai infatti tanti anni accumulati sulle spalle. Sì. Lo so. Infatti ho 50 però, anni. Però mascotte, questa cosa che tu vuoi fare... Faccio presente che se tu avessi 50 anni non avresti vissuto la seconda guerra mondiale. Però comunque, al di là di questo, andando avanti nel nostro ragionamento che ha un filo logico, si chiama, quello che tu vorresti fare in radio, si chiama presentazione di un libro. Molti scrittori la fanno questa cosa nelle librerie, per radio. Si chiama presentazione del libro, dove tu spieghi per l'appunto come è nata l'idea del tuo libro, come l'hai scritto, poi leggi alcuni spezzoni. È nata in classe? E inviti... Morta sul banco, ero stanca, morta. Dopo una giornata stavamo per uscire dalla scuola e ho detto, ma sai che ti dico? Io mo scrivo un bel libro e ci scrivo di una bambina che va a scuola. Ah ecco, comincia così, faccio quindi. Faccio soffrire quella bambina al posto io tuo. Soffro. Al posto tuo, no? Potresti farla soffrire al posto tuo, in effetti. Peggio dei bambini. Soffrire tu, soffre la protagonista del tuo libro. No. Tutta una sofferenza qua, tutto un disastro di sofferenza. Potrei fare come Romeo e Giulietta. Beh, mi sembra un po' too much, ecco, un po'. Ehi. Troppo forse, un po' troppo come Romeo e Giulietta, però ecco, questo era tutto un preambolo per dire che la mascotte sta scrivendo un libro, ci abbiamo messo 10 minuti a dirlo, complimenti mascotte, molto bene. Sì. Abbiamo, direi, concluso, mandiamo un brano musicale e... Sveglia,

Che sì. C'ho anche il calendario davanti, poi studio, che non capisco. Che dice esattamente che fra una settimana, sì, cioè venerdì prossimo è la giornata dei calzini spaiati. No, non voglio guardare il calendario. Ma tu sai perché c'è questa giornata, perché è una giornata poi mondiale, eh? Perché una volta un calzino ha cambiato colore il lavatrice dei calzini spaiati e ha deciso che adesso si dovevano meritare tutti la sofferenza sua e quindi tutti dovevano indossare dei calzini spaiati. Però invece no. I gemelli coi gemelli. E invece no, invece no. No. La giornata dei calzini spaiati è una giornata che va a celebrare, diciamo, l'inclusione, per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi legati alla salute mentale e al bullismo. Quindi è una giornata importante. Si va ovviamente a sensibilizzare tanto i più piccoli, i più giovani. Ecco perché ne parliamo anche a Dedicato, perché è una trasmissione per i giovani, con i giovani. Dedicato ai giovani. Dedicata ai giovani, certo. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Questa cosa della giornata dei calzini spaiati è stata pensata nel Regno Unito nel 2013. La prima edizione è stata questo così. Questo non lo sapevo. La prima edizione italiana invece risale al 2014, quindi insomma 11 anni fa, sono 11 anni che cosa succede? Poi uno dice cosa facciamo in questa giornata? Niente, semplicemente la mattina ci si mette dei calzini spaiati, uno diverso dall'altro. E se io non ce li ho i calzini spaiati? Quindi praticamente la cosa simpatica è che ci si mette questi calzini uno diverso dall'altro per promuovere l'accettazione delle differenze, incoraggiare le persone a abbracciare le differenze di genere, di razza, di abilità, di religione, di orientamento sessuale, combattere il bullismo. È brutto il bullismo, noi fa. Sì, noi fa, non si fa. No. E quindi insomma è una cosa veramente molto carina, basta semplicemente svegliarsi la mattina e mettersi due calzini diversi. Che già per me mettermi i calzini è un viaggio mentale, che devo andare prima di tutto a scegliere la coppia dei calzini, poi il giorno dei calzini spagliati ne devo scegliere due diversi, perché c'ho intanto i piedi che non è che profumino poi così tanto che mi sveglio la mattina. Mi sveglio la mattina, mi vado a mettere i calzini e non ci riesco. E quindi è tutto un problema, insomma, questa giornata per te. Però ma noi, ha un buon significato. Ma noi ti aiuteremo proprio per questo, perché attraverso l'empatia e il supporto reciproco si va a sensibilizzare su tutti questi temi e aiuteremo anche con la nostra empatia la mascotte a mettersi calzini. Due calzini diversi. E dopo questa ci salutiamo, ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 13 su Radio Città Fujiko. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me.